Letture di Radio 24. La settimana scorsa, Alessio Burtone, che nel 2010 aveva ucciso un'infermiera romena sferrandole un pugno in faccia dopo un banale litigio, è tornato in libertà, dopo aver scontato solo 4 anni di detenzione, in parte in carcere, in parte agli arresti domiciliari. Pochi giorni dopo, la Corte di Cassazione confermava la condanna definitiva a 13 anni e 2 mesi di carcere per Fabrizio Corona. In mezzo c'è stata la richiesta di 26 anni di carcere per Francesco Schettino, accusato della morte di 32 persone. C'è qualcosa di strano in tutto questo, commenta Francesco Maria Del Vigo nel suo blog sul Libero. Corona è, sarebbe meglio dire era, uno sbruffone insopportabile, un tamarro incontenibile e un delinquente impenitente, che ha collezionato un gran numero di reati e conseguenti condanne. Aggressione a pubblico ufficiale, estorsione e tentata estorsione, estorsione aggravata e trattamento illecito di dati personali, detenzione e utilizzo di banconote false e detenzione e ricettazione di una pistola, violazione di domicilio, appropriazione indebita, falso, corruzione, bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale. C'è mezzo codice penale nella sua breve biografia, non c'è nulla da dire. Non invidio chi ha dovuto occuparsi della sua difesa, perché Corona è indifendibile, non solo per il numero di reati che ha commesso, ma soprattutto per il modo in cui li ha commessi, alla luce del sole, con arroganza, quasi vantandosene. Con una straordinaria pervicacia autodistruttiva ha costruito, tratto dopo tratto, il suo identikit criminale e in un assurdo contrappasso ha fatto tutto questo a favor di obiettivo. Proprio lui che aveva intuito e sfruttato la popolarità come arma micidiale. Ma in questa questione ci sono tanti ma. E 13 anni di detenzione sono tanti, troppi, specialmente in un paese nel quale la giustizia è più incerta delle previsioni del tempo. La condanna di Corona puzza di moralismo, di punizione esemplare. Sa di pezza mediatica rattoppata sulle maglie stracciate di una giustizia alla quale sfuggono pesci ben più grossi, ma meno in vista. Ma quello che colpisce, soprattutto, è la mostruosa sproporzione della pena. Facciamo l'esempio più semplice. Francesco Schettino. Per il comandante della Concordia sono stati chiesti dal PM, solo chiesti al momento, 26 anni e 3 mesi di reclusione. Ma Schettino è accusato di avere sulla coscienza la vita di 32 persone. Corona, principalmente, ha fatto del male a se stesso. Ma si può continuare a lungo con esempi di questo tipo, perché le cronache sono piene di stupratori condannati a un paio d'anni, pedofili che trascorrono un paio d'anni in carcere, assassini che se la cavano con pene inferiori a quella del fotografo. E, ancora una volta, Corona si trasforma in un caso mediatico. Il fotografo diventa una foto, raffigurazione, l'istantanea vivente ma carcerata di quanto sia sbilenca e deforme la giustizia italiana. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Francesco Maria Del Vigo a Corona 13 anni, a Schettino 26, dal blog di Libero Pensieri Spettinati. Letture di Radio 24. È sbagliato pensare che il radicalismo islamico nasca da motivazioni religiose. Lo scrive Ernesto Galli della Loggia in un corsivo pubblicato mercoledì scorso sul Corriere della Sera, nel quale spiega che la famosa frase pronunciata da Papa Francesco in merito alla strage di Parigi contiene 2 gravi errori di giudizio. Le parole ormai famose di Papa Bergoglio a commento della strage di Parigi, «Se tu offendi la mia mamma, un pugno te lo devi aspettare», hanno segnato l'inizio di una significativa inversione di tendenza, o almeno di un dubbio, nel giudizio su quei fatti da parte dell'opinione pubblica occidentale, che si può esprimere con queste parole. La libertà va difesa, naturalmente, ma offendere le religioni, e poi con quella volgare crudezza propria di Charlie Hebdo, è sbagliato. È sbagliato non tener conto della particolare sensibilità che hanno in proposito i fedeli musulmani. sono parole ispirate a una saggia prudenza in teoria condivisibile, che possono però avvalorare due gravi errori di giudizio. Il primo è quello di far credere che il radicalismo islamico abbia nella sostanza un carattere di reazione, di risposta, a presunte azioni dell'Occidente, che è precisamente ciò che esso vuol far credere per ovvi motivi di popolarità, ma che è falso, e che sia falso lo dimostrano proprio i recenti sanguinosi fatti di Parigi. Di quali offese religiose si era mai macchiata, infatti, la poliziotta spietatamente freddata a Montrouge poche ore dopo la mattanza della redazione di Charlie Hebdo? E qual era la terribile blasfemia commessa dai quattro clienti del supermercato Kosher altrettanto spietatamente fatti fuori? Forse quella davvero imperdonabile di essere ebrei, come tante altre vittime uccise di recente in Francia e in Belgio? E ancora, quali insulti a quale mamma avevano lanciato i 3.000 morti negli attentati dell'11 settembre alle Torri Gemelle? Riesce difficile rispondere. Così come riesce alquanto difficile indicare le ipotetiche colpe commesse dalle centinaia e centinaia di cristiani massacrati da anni, dal Pakistan alla Nigeria, per mano del fanatismo islamico, se non una sola colpa, certo gravissima: essere cristiani, per l'appunto. Il secondo errore che l'improvvisata affermazione papale può ingenerare è questo: che seppure viene accettato il principio della difesa della sensibilità religiosa, tracciare in materia un confine giuridico oggettivo resta quanto mai difficile, anzi impossibile. Non è male ricordare a questo proposito che la vignetta che da anni costa al suo autore danese una vita infernale, rinchiuso in una sorta di casa bunker, protetto da decine di gendarmi contro la furia omicida del fanatismo islamico, non aveva nessuno dei caratteri volgari e sessualmente spinti di Charlie Hebdo. Ritraeva Maometto con un turbante che avvolgeva una bomba. Ma tanto è bastato. Il romanzo di Salman Rushdie, Versetti satanici, contiene una rivisitazione in chiave onirica di una presunta ispirazione diabolica di Maometto. Di nuovo, tanto è bastato per far guadagnare al suo autore una condanna a morte dall'imam Khomeini, al traduttore giapponese del libro La morte effettiva e, infine, il ferimento a quello italiano e all'editore norvegese dell'opera. Un altro esempio. Il regista olandese Theo van Gogh è stato ucciso solo per aver girato un documentario sull'oppressione delle donne nel mondo islamico, mentre la deputata olandese musulmana, collaboratrice del regista, ha dovuto rifugiarsi negli Stati Uniti e da allora vive sotto protezione. La domanda allora è: visto che da quanto appena detto sembra proprio che la soglia di sensibilità religiosa diffusa nell'Islam sia estremamente bassa, davvero dovremmo farla nostra, adottandola nella nostra legislazione? Va da sé però che in questo caso dovremmo adottarla come norma generale applicabile a tutte le fedi religiose. Che facciamo se no? Decidiamo noi quale sia la soglia politicamente corretta della sensibilità religiosa, solo oltre la quale scatta la sanzione penale? E in base a quale criterio e con quale certezza di risultati? In realtà l'intolleranza fanatica così diffusa nell'universo islamico, madre diretta della sua vasta propensione alla violenza, rimanda direttamente a un fattore che tuttora ci ostiniamo a non considerare, e cioè la scarsa conoscenza che in esso si ha del mondo moderno, causata a sua volta da una scarsa diffusione dell'istruzione. Per cui, in pratica, l'unico strumento di acculturazione per masse larghissime della popolazione finisce per essere l'insegnamento religioso. Secondo l'UNESCO, infatti, nel 2009 circa il 40% degli arabi sopra i 15 anni, specie le donne, era analfabeta. E da allora la situazione non sembra essere molto migliorata. Con tali premesse, non stupisce il risultato di un rapporto redatto nel 2002 sotto l'egida delle Nazioni Unite, e cioè che nell'insieme dei paesi arabi, circa 400 milioni di abitanti, si pubblicavano meno libri che nella sola Spagna, mentre secondo un rapporto analogo del 2003, in 1000 anni il mondo arabo nel suo complesso avrebbe tradotto all'incirca 10.000 titoli. Ancora una volta l'equivalente di quelli che sempre la sola Spagna traduce in un solo anno. Per giunta, le grandi opere della cultura occidentale sono tradotte in un numero limitatissimo e le traduzioni sono spesso mediocri. Forse da qui, da questi dati, dovremmo cominciare a ragionare quando parliamo, così spesso a vanvera, di terrorismo, multiculturalismo e integrazione. Forse a partire da questi dati dovremmo impegnare un confronto serrato, amichevole ma fuori dai denti, con i paesi arabi. E quelli che avete ascoltato erano alcuni passaggi dal corsivo di Ernesto Galli della Loggia, L'Islam non ci chieda di limitare la libertà, dal Corriere della Sera del 28 gennaio. Domenica scorsa, mentre si preparava ad accogliere la svolta estremista del partito di Tsipras, la Grecia perdeva la sua voce più grande, quella di Demis Roussos. Gino Castaldo lo ricorda sulle pagine di Repubblica. Demis Roussos, morto in una clinica privata ad Atene a 68 anni dopo una lunga malattia, era una di quelle voci che in nessun modo potevano essere confuse. Bastava una singola nota ed era inconfondibilmente Demis, il greco dalla voce angelica, alta, densa di vibrato, suadente e inevitabilmente romantica. Faceva un grande effetto col suo look esotico e barbuto, simpatico, pittoresco, a metà tra il guru e il pastore di un'immaginaria Arcadia olimpica. Il suo canto veniva da un'era felice della musica, quando la creatività riempiva il mondo e l'asse portante del grande mercato si stava spostando fuori dal monopolio anglosassone. Voci di periferia cominciarono ad arrivare dall'Italia, dalla Francia e perfino dall'antica terra degli dèi. Demis veniva dalla Grecia, ma era nato in Egitto da padre greco e da madre egiziana, di origini italiane. E lì era rimasto finché la crisi internazionale del 1956, legata al canale di Suez, non aveva spinto il padre a ritornare in patria. Demis aveva 10 anni e già qualche nozione di musica che mise a frutto da adolescente in varie formazioni, fino a quando nacquero gli Aphrodite's Child, già nel nome un'idea programmatica, nome inglese, contenuto profondamente greco, all'inizio un quartetto, poi subito dopo un trio, che col senno di poi può essere considerato una sorta di supergruppo, considerando che ognuno dei tre aveva una ben salda personalità, a partire soprattutto da Vangelis Patanassiou, meglio noto come Vangelis, che diventò in seguito uno dei più celebri compositori di musica per cinema. L'altro era Lucas Sideras, anche lui protagonista di un percorso solista. Demis Roussos, dal suo canto, dopo tre album con la band in cui suonava egregiamente il basso, oltre che cantare, e aver infilato almeno un paio di clamorose hit internazionali, come It's 5 O'Clock e Rain and Tears, oltre che un ambiziosissimo album, l'ultimo, intitolato coraggiosamente 666, ritenuto una delle perle del movimento progressive, intraprese la carriera solista. La scissione fu dovuta soprattutto alle divergenze con Vangelis, col quale però è rimasto in buoni rapporti, tanto da collaborare ad alcune delle imprese filmiche dell'ex compagno. Vangelis era più visionario, più sperimentale. Roussos, in fondo, aveva un'anima più popolare, la voglia di compiacere il pubblico con melodie accattivanti e leggere. Vedi un pezzo come Forever and Ever, il massimo che si possa immaginare come romantica spensieratezza. Ever and ever, forever and ever, you'll be the one that shines on me like the morning sun. Ma anche Goodbye My Love Goodbye o Someday Somewhere non sono da meno. Melodie struggenti, talvolta condite con suoni folk, plettri da sirtaki. Goodbye, my love, goodbye. Gli fruttarono decine di milioni di dischi venduti, premi e riconoscimenti. Una costante bonomia interrotta una volta quando si trovò a bordo di un volo Atene-Roma il 14 giugno 1985 che fu dirottato da terroristi libanesi. Passò alcuni giorni terribili, compreso quello del suo 39esimo compleanno, prigioniero di Hezbollah, ma alla fine andò tutto bene. Raccontò che gli avevano offerto la torta di compleanno e chiesto di cantare. Alla sua voce non resistevano neanche i terroristi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Gino Castaldo, Muore a 68 anni, Demis Roussos, la voce di Afrodite, dalla Repubblica del 27 gennaio. Inquinamento di cui si parla poco, ma che può essere letale quanto quello dell'aria o dell'acqua, il rumore. Ne ha ribadito il pericolo un recente rapporto dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, che ha elaborato i dati sui livelli di rumore quotidiano a cui sono esposte le popolazioni urbane di vari paesi del continente. Brilla l'assenza dell'Italia, che non ha mandato dati, estrapolando poi i risultati all'intera Europa. La principale fonte di rumore è risultato essere il traffico, che insieme con locali notturni, aeroporti, radio, TV e sirene varie, espone 125 milioni di europei a livelli di rumore medio quotidiano superiore alla soglia di 55 decibel, quello di una normale conversazione sotto la quale i suoni sono considerati innocui. 20 milioni di persone devono poi convivere con un rumore medio oltre la soglia di fastidio, di 70-80 decibel, strada trafficata, sveglia, con il risultato che 8 milioni di loro hanno il sonno disturbato. Ma il rumore non peggiora solo la qualità della vita, può anche uccidere. Secondo il rapporto, infatti, ogni anno in Europa si verificano 10.000 morti premature da rumore. Troppi decibel provocano un aumento dello stress, che a sua volta si ripercuote sulla salute cardiocircolatoria e mentale, con un danno anche economico, stimato fra i 13 e i 30 miliardi di euro annui. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Alex Saragosa di Troppo rumore si può morire, dal venerdì di Repubblica del 29 gennaio 2015.